cheta, rispondi e non mentir. Questa catena donde avesti? Signor, da mano ignota io l'ebbi no. Dov'eri allor? Là dove il mar presso Amorinto scorre il torbido assopo. Ah, ch'io rivengo delle note sembianze, qualche traccia in quel volto. Io non m'inganno. Certo, egli ed esso. Ad un antico errore mio re son reo, deme il perdona, io tutto fedelmente dirò. Sorgi, favella! Al mar come imponesti non esposi il bambino, pietà mi vinse. Costui straniero ignoto mi venne innanzi e gliel donai, sperando che in remote contrade tratto l'avrebbe. E quel fanciullo, Aminta, dov'è? Che ne facesti? Io? Qual arcano da scoprir? Tu impallidisci, parla, empio, di che ne fu? Facendo aggiunge all'antico delitto, error novello! L'hai presente, signor, licita è quello! Come? Non è di Creta? Dici dal prince? Il vero prince in fasce finì la vita. Io ritornato appunto con lui bambino in Creta, al re dolente lo offersi in dono. E dell'estinto invece al trono l'educò per mio consiglio. Un nome. Ecco Filinto, ecco mio figlio. Stelle. Sì, tu nascesti gemello ad Aristea, Delfo m'impose d'esporti al mar bambino, un parricida minacciandomi in te. Comprendo adesso l'orror che mi genova quando la mano sollevai per ferirti. Adesso intendo l'eccessiva pietà che nel mirarti mi sentivo nel cor. Felice madre! Oggi molti in un punto puoi rendere felici. E lo desio, d'Argene, Filinto il figlio mio, Megacle d'Aristea vorrei consorte. Ma Filinto il mio figlio, erreo di morte. Non è più reo quando tuo figlio. E forse la libertà dei falli permessa al sangue mio. Ora, ministri, risvegliate sull'ara il sacro fuoco. Va, figlio, e mori. Anch'io morrò fra poco. Che giustizia inumana! Che barbara virtù! Signor, t'arresta, tu non puoi condannarlo. In Sicilione sei re, non in Olimpia. È scorso il giorno a cui tu presiedesti. Il reo dipende dal pubblico giudizio. Ebben, s'ascolti dunque il pubblico voto. Apro del reo, non prego, non comando e non consiglio.